Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Giovedì 21 ottobre, bentornati di nuovo a tutte e tutti su Liberi Dentro Eduradio TV, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Io sono sempre Caterina Bombarda e sono sempre con Antonella Cortese. Buongiorno Antonella. Buongiorno Caterina, salve a tutti. E a proposito di consuetudini, siamo sempre in onda su Radio Città Fujiko 103.1, Teletricolore canale 636 e Lepida TV canale 118. L'articolo di oggi che vi propongo per una lettura approfondita è tratto da ilpost.it a cura di Claudio Caprara ed è Scampoli di normalità in carcere. È un argomento che è stato già trattato da Eduradio in un'intervista quest'estate a Luciana delle Donne, che è la fondatrice a Lecce di un laboratorio sartoriale e del marchio Made in Carcere. Ma la cosa straordinaria di questa storia è proprio il soggetto, è proprio Luciana delle Donne, che poteva in questo momento dirigere una banca a Londra, ma ha scelto di tornare a Lecce per fare qualcosa per le donne detenute e Made in Carcere è nato proprio così. Ma dovete sapere che la prima vita dell'ideatrice di Made in Carcere è assai diversa da quella che fa oggi. Lei era una sciura milanese, si definisce, andava in giro vestita molto bene, portava i gemelli, aveva camicie con le cifre ricamate, le scarpe col tacco, insomma faceva una vita piena di comodità e di lusso e abitava i piani alti della società, molto lontano da chi non ha nulla e fa una vita di privazioni. Comunque complimenti a Luciana delle Donne, perché effettivamente ha fatto una rivoluzione incredibile, veramente, dai piani alti della società fino a prendersi in mano un laboratorio imprenditoriale per portare lavoro in carcere, veramente encomiabile. Ma come è arrivata a scegliere questa strada? Dici bene, una bella trasformazione, siccome Luciana nel 2000 era una manager e ha ideato e lavorato a una delle prime banche online italiano. La rottura però a un certo punto è avvenuta perché Luciana non reggeva più il ritmo delle riunioni una dopo l'altra, le corse a ogni scadenza e anche la necessità di produrre sempre di più del trimestre precedente. E la rottura è avvenuta proprio quando la sua banca le fece una di quelle proposte che, come si dice, non si possono rifiutare, ovvero andare a Londra a dirigere una nuova struttura. Ed è lì che Luciana ha rifiutato, ha scelto no, basta, mi sono stancata di essere un dente di questo ingranaggio e quindi ha deciso di cambiare vita. Come sapete, la scelta di scendere dalla giostra, per così dire, non è una grande novità per i manager di quel livello e dopo un paio di mesi infatti la trattativa è stata risolta con la sua uscita. Non è stato così invece per la sua famiglia, che invece ha sofferto molto questa sua decisione, siccome veniva da una famiglia dove tutti erano in qualche modo dirigenti bancari e quindi l'hanno ritenuta come pazza per aver scelto questo. Sì, stava passando per essere pecora nera in quel contesto, non nella famiglia, ma sicuramente ci sarà stato un aspetto anche personale in questa scelta, o sbaglio? Effettivamente la scelta di Luciana, come dice lei, riguardava anche la sua vita privata, il desiderio di un figlio, la voglia a 40 anni di ritrovare una vita normale dopo una vita dove, insomma, è stata una donna in carriera, dove in realtà le privazioni sono state tante anche per lei, come per esempio quella della famiglia. E quindi ha pensato bene, la prima cosa che voleva fare una volta toltasi dal mondo del manageriale bancario, dedicarsi ai bambini, aiutarli direttamente. Poi, come sappiamo, le regole e le strutture per aiutare i bambini non sono così semplici e quindi ha pensato di aiutare le loro mamme e si è chiesta quali sono le madri che vivono peggio, qual è l'ultimo livello sociale da dove cominciare, ed è qui che è partita l'idea di cercare di far salire di un gradino di benessere in più una parte dei 65.000 reclusi che stanno nelle carceri italiane, applicando le conoscenze manageriali alle azioni di recupero dei detenuti. E quindi da lì si è poi occupata di carcere anche lei, no? Infatti è stato proprio così. La prima volta che Luciana delle Donne è entrata in una prigione ha incontrato la direttrice del carcere di Lecce ed era Anna Rosaria Piccinini e si è presentata così: io non so nulla, sono qui per dare una mano. Tra le sue passioni di Luciana c'era la moda, quindi aveva brevettato proprio lei stessa un collo di camicia e voleva farlo riprodurre alle detenute, insegnando loro a fare colli di camicia. Ma non andò sempre bene, nel senso che all'inizio partì Made in Carcere con l'entusiasmo di questi prodotti di moda fatti all'interno delle carceri, dalle detenute, però doveva, diciamo, mettere a punto meglio la sua strategia di azione, Luciana, e insegnare un lavoro molto velocemente in modo tale che una volta uscite le donne potessero trovare un lavoro in questo settore e quindi reinserirsi nella società più facilmente. Caterina, oggi qual è l'idea di fondo del progetto? L'idea di fondo è utilizzare materiali di scarto delle produzioni sartoriali ufficiali per produrre accessori di moda. Con questa produzione si vuol far capire che dagli scarti, in questo caso di scampoli, possono nascere cose ambite e belle, ed è un messaggio subliminale pedagogico e didattico anche per chi sta in carcere ed è comunemente considerato uno scarto della società. Ma ora una canzone per rimanere in tema nelle terre di Luciana, nelle terre di Puglia. Ecco per voi il Bomba Dash per un milione. A fra pochissimo. Come una mamma aspetta quell'ecografia, spero che prenda da te ma con la testa mia. Ti aspetto come lì ti aspettano l'estate, come le mogli dei soldati aspettano i mariti. Ti aspetto come i bimbi aspettano il Natale, come i signori col cartello aspettano gli arrivi, e non è mai per me. Ti aspetterò come il caffè a letto a colazione, come un concerto dall'inizio si aspetta. Così se poi mi raggiungi e poi ti stringo forte, questa volta non sfuggi, non ti perderò più. Aspetterò che torni come aspetto il mare, mentre sto camminando sotto il temporale. Come una mamma aspetta il figlio fuori scuola, ti aspetto come chi vorrebbe riabbracciarlo ancora. Ti aspetto come il gol che sblocca la partita, come le mogli dei soldati aspettano i mariti. Ma già l'attesa è fantastica, noi come benzina in questo mondo di plastica. E rieccoci, bentornati sempre su Liberi Dentro e Edu Radio TV. Riprendiamo con lo sport. Da ieri stavamo parlando di sport e diritti in Francia. Antonella, continua tu. Sì, continuiamo perché ieri, come sapete, abbiamo parlato della Federazione Francese di Calcio, la FFF, che vieta di indossare simboli religiosi evidenti, e così si è riaperto il dibattito su ciò che le donne musulmane possono o non possono indossare, e anche con la legge contro il separatismo religioso entrata in vigore ad agosto, e attraverso la quale i parlamentari hanno cercato di usare la norma appunto per vietare formalmente il velo in tutte le competizioni sportive. Questa seconda norma ha spinto le calciatrici che portano l'hijab a trovare dei modi più sottili per giocare al loro sport preferito. Mi viene un po' da ridere perché, pensando a Bouchra Chaib, ostetrica di 27 anni, una delle presidente delle Les Hijabées, si è procurato un certificato medico in cui c'è scritto che per motivi di salute durante le partite deve indossare il caschetto da rugby. Però un giorno un arbitro gli ha detto che non poteva giocare con il caschetto, e secondo Chaib il concetto di segni religiosi visibili è molto vago, sia per i giocatori sia per i funzionari, e può essere facilmente usato contro le atlete musulmane. E per Rim Sara Alouane, che è una docente universitaria che si occupa di libertà religiose e civili in Francia, il regolamento della federazione è volutamente ambiguo. La proposta di legge contro il separatismo è altrettanto piena di termini confusi per giustificare la restrizione di una libertà, dice. Le autorità guardano sempre i musulmani e l'Islam attraverso il prisma della sicurezza, ha proseguito, e l'hijab viene trasformato in un'arma, un nemico simbolico. In Francia consideriamo ancora la diversità una minaccia, anche se il calcio dimostra che la diversità invece ci rende forti. Mi interesserebbe sapere a riguardo il parere degli studiosi, magari gli studiosi francesi, cosa pensano? Allora, Caterina, il divieto dell'hijab, secondo gli esperti, unisce varie questioni, quella di genere, etnia, classe, oltre a quella ovviamente dell'islamofobia. E certo, la prima discriminazione c'è stata quando lo Stato ha deciso di costruire quegli enormi complessi di case popolari, che sono appunto le banlieue, per gli immigrati. E per dire agli immigrati, non fate parte del nostro popolo. Questo lo sostiene Alouane. Una ricerca del 2019 condotta dal collettivo contro l'islamofobia in Francia ha messo in evidenza che nel 70% dei casi le vittime dei reati d'odio contro i musulmani sono, indovina chi, le donne. Un altro rapporto dello stesso anno ha rilevato che il 44,6% della popolazione francese considera i musulmani una minaccia all'identità nazionale. Chaiba ha cominciato a portare l'hijab, tanto per parlare di lei, quando aveva 13 anni, ed è sempre stata discriminata a scuola e al lavoro. Sperava che nel calcio sarebbe stato diverso. E nonostante la numerosa popolazione musulmana in Francia, le donne con l'hijab si vedono raramente nella vita pubblica e negli sport, a causa dei discorsi spesso ostili nei loro confronti. E secondo l'attivista sportiva e giornalista Shireen Hamed, ci sono generazioni di donne che non hanno cominciato a giocare a calcio semplicemente perché non avrebbero potuto portarlo avanti, e anche se le atlete in teoria dovrebbero essere considerate al di là del loro modo di vestire, afferma ancora la giornalista, vedere più giocatrici musulmane con l'hijab contribuirebbe a normalizzare la diversità agli occhi dell'opinione pubblica. E lei dice: non sto difendendo il velo, ma la libertà di scelta, dice Hamed. Chiediamo alle donne di dare il meglio di sé come atlete e poi non le lasciamo decidere quale uniforme indossare. Però, Antonella, mi sembra che la FIFA non si sia mostrata contraria a non far rispettare le sue regole. Quindi qual è il problema? È proprio così, Caterina. La Francia sta infrangendo la pratica stessa del calcio e il regolamento scritto dalla FIFA. Ripeto ancora le parole di Ahmed. La FIFA è complice perché lo consente. Un portavoce della FIFA, rispondendo alla richiesta di un commento, ha detto: la FIFA continua a monitorare la situazione relativa all'applicazione delle regole sul gioco del calcio all'interno delle associazioni che ne fanno parte. E questa è stata la risposta. La Federazione Francese ha inviato ad Al Jazeera, la famosa TV, una dichiarazione in cui sostiene di avere una missione di servizio pubblico, applicare le leggi della Repubblica. Sostiene e difende i valori della laicità, della convivenza, della neutralità e della lotta contro ogni forma di discriminazione e non autorizza l'esibizione di simboli politici o religiosi visibili nel contesto della pratica collettiva e pubblica del calcio e nelle relative competizioni. E questa è la risposta. Però restiamo ancora a ballare con Goran Bregovic con la canzone Gas, Gas, Gas. Ascoltiamola insieme. Шофельский гостиона, гормона до платформа, мамушка рацетона, турбо е сезона. Ей, что лишь мирис от бензина, ей, ты так уфина, хопко, мало-мало, подкривина, люля, се кабина, турбо е машина. Bentornati di nuovo a tutte e tutti su Liberi Dentro Due Radio TV. Siamo sempre con il nostro Paolo Aleotti. Caro Paolo, ci siamo lasciati. Ciao intanto, bentornato. A te e ai nostri telespettatori. Ai nostri telespettatori e ascoltatori, dalle carceri dell'Emilia Romagna e dalla Dozza in particolare. Ci siamo lasciati l'ultima volta negli Stati Uniti d'America, dove tu hai vissuto 10 anni, parlando della tua missione e anche passione del mestiere giornalistico tra aneddoti e ricordi. Poi, tornando in Italia, sappiamo che sei stato anche qui reporter e giornalista realizzando inchieste e documentari, tra cui una serie di reportage per la trasmissione Ballarò, e poi nel 2007 hai lavorato come autore e inviato per la trasmissione RT a fianco di Enzo Biagi. Come ricordi questo salto temporale e come è stato lavorare con uno dei più grandi veramente cronisti italiani come Enzo Biagi? Beh, in effetti hai ragione. Approdare a RT, rotocalco televisivo, che riprendeva la sigla di una famosa trasmissione di Biagi, dopo che però Biagi era stato praticamente bandito, cacciato via dalla televisione italiana, dal famoso editto bulgaro di Berlusconi, è stata veramente emozionante, innanzitutto per vedere questa persona oltre ottantenne ormai, che aveva rinunciato quasi all'idea di poter tornare alla televisione, a fare le cose e tutto il resto, invece vedere che dentro ci metteva veramente un entusiasmo, una forza, anche una roba di orgoglio e di dignità. Sono tornato, perché veramente se lo meritava. E il salto è stato piuttosto pesante, dico la verità, molto ammorbidito dall'incontro con Biagi. Il passo pesante è stato passare dal giornalismo anglosassone che avevo conosciuto negli Stati Uniti al giornalismo, come dire, che rincontravo in Italia, dove scoprivo che i giornali parlano dall'uno all'altro e non dicono mai le cose direttamente al lettore o all'ascoltatore, dove ci sono tanti commenti e nessuna notizia. Ecco, questo era veramente difficilissimo. Grazie a Biagi ho ripreso molto rapidamente però il senso del giornalismo. Biagi è un grandissimo giornalista, all'apparenza, a vederlo modesto, sembrava un uccellino, così poi ancora invecchiava, no? E però con una grandissima bravura, dignità, capacità di darti le cose, come un direttore d'orchestra. E tra le sue grandezze ci metto anche il fatto che lui sceglieva le persone più brave sempre, ma era molto attento a scegliere qualcuno che non volesse prendere il suo posto. Quella era anche una grandissima bravura, prendere i più bravi ma che caratterialmente non vogliono passarti avanti, perché altrimenti il direttore d'orchestra si trova troppi primi violini a voler, no, suonare. Quindi c'è stata questa cosa, francamente. Beh, no, questo salto temporale un po' tra il giornalismo anglosassone, passare a quello italiano, che ti ha portato a lavorare con programmi anche di infotainment, informazione e intrattenimento, sì, lavorando a Che Tempo Che Fa su Rai 3, condotta da Fabio Fazio. Cioè, la domanda che volevo farti è come è cambiato secondo te il giornalismo italiano in questi 20 anni? Sì, questo provo a rispondere dandoti anche però una risposta sull'infotainment, no? Cioè, mi sono trovato a fare un lavoro che non era esattamente il mio, di giornalista. Mi sono trovato a fare a mia volta con Fabio Fazio, il comandante della nave che ha questo timone, che però ho spostato fino a un certo punto. Non ero più il centrattacco, come quando ero negli Stati Uniti, che raccontavo tutto io, ma aiutavo gli altri a raccontare. Nel frattempo, appunto, il giornalismo in Italia, secondo me, era diventato piuttosto difficile, e non era un caso che lo facesse anche una trasmissione come quella di Fazio, che non è una trasmissione giornalistica, ma che anche in qualche modo, per tappare un po' di buco che resta nell'informazione italiana, faceva molta informazione. Una delle cose che ricordo con più amore, con più voglia e passione, è un viaggio che ho fatto assieme a Henry De Luca, grande scrittore, a Lampedusa per raccontare l'immigrazione in Italia. Una cosa di un poetico pazzesco e che in qualche modo lui è riuscito a raccontare dicendo delle cose straordinarie. A sottolinearlo, io ho usato una colonna sonora che ti proporrei, se vuoi, di poter ascoltare anche qui, che è Ritals di Gian Maria Testa, che è un pezzo meraviglioso che si accompagna appunto al frangere delle onde, ai flutti che vediamo attorno a Henry De Luca mentre racconta così le difficoltà dell'immigrazione di Bari. Ascoltiamola e ci vediamo tra pochissimo. Sapevamo anche noi l'odore delle stive, l'amaro del partire, lo sapevamo anche noi. È una lingua da disimparare, è un'altra da imparare in fretta, prima della bicicletta, lo sapevamo anche noi. E la nebbia di fiato alle vetrine, e il tiepido del pane e l'onta di un rifiuto, lo sapevamo anche noi, questo guardare muto. Sapevamo la pazienza di chi non si può fermare e la santa carità del santo regalare. Lo sapevamo anche noi, il colore dell'offesa e un abitare magro e magro che non diventa casa. E la nebbia di fiato alle vetrine e il tiepido del sapevamo anche noi questo guardare muto. Eccoci, bentornati dopo Rituals di Gianmaria Testa, lanciata da te Paolo. Torniamo a noi, perché dal 2002 tu sei professore di giornalismo radiotelevisivo al Master di Giornalismo della Fondazione Basso di Roma e da alcuni anni insegni anche all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Quindi, da professore, la domanda che vorrei farti è questa: c'è qualcosa che non si può insegnare ai tuoi studenti e soltanto aspettare che loro la esperiscano da soli? Quello che non si può insegnare è veramente la passione e la voglia. È la voglia per i dettagli, la voglia per la curiosità. Ecco, questa o ce l'hai dentro, te la puoi coltivare molto, però francamente è difficile da insegnare. E però è importantissima quando... Le cose che racconto, per esempio, ai miei studenti è molto di più. Dico, ma voi, questa stanza che vedete qui intorno a me, avete già contato quanti quadri ci sono, quante lampade ci sono? Avete letto le scritte? Sapete dove siete? Ecco, questo non si insegna. Bisogna lanciarlo come messaggio e poi se la gente invece vuole la cosa che secondo me è importantissima è non tentare mai scorciatoie. Le scorciatoie ti fanno arrivare prima e poi ti fanno inciampare la volta dopo, non ti insegnano nulla. Questo si può insegnare? No, anche perché uno giustamente quando è giovane vuole arrivare subito di corsa, però in qualche modo non si insegna insieme la modestia e l'ambizione, eppure si può essere ambiziosi e modesti e umili e ascoltare, si può insegnare l'ascolto? No, però apritevi le orecchie per favore e ascoltate, guardatevi intorno. Ecco, questo non so se si può insegnare, ma credo che sia l'insegnamento più importante che si possa. E poi l'altra cosa, inutile disperarsi, siamo tutti nello stesso mondo, siamo tutti col Covid che ci circonda, siamo tutti con i cattivi che scrivono sui social, con gli haters. È importante. Grazie Paolo, è importante. E infatti l'ultima cosa che... le notizie, leggerle e capirle. E l'ultima cosa che volevo chiederti è se c'è qualcosa che tu impari da queste nuove generazioni tutto, con le quali sei a contatto. Tutto, mi insegnano tantissimo perché hanno, e a volte neanche lo sanno, un entusiasmo meraviglioso, un'energia stupenda. Io credo che la cosa più bella sia proprio la, come dire, no? L'unione tra le esperienze, chiamiamola così, e la forza, la voglia, l'intelligenza che voi giovani esprimete. È bellissimo e io imparo tantissimo. E me le segno perché non c'ho più memoria. Allora, io lancio l'amo per la prossima volta, siccome tu sei anche il coordinatore di Teleradio Reporter al carcere di Bollate di Milano, di raccontarci la prossima volta questa esperienza con questi studenti speciali, questi grandi collaboratori che hai avuto e che hai con te. A presto Paolo, alla prossima. Grazie, a presto, arrivederci. È difficile accettare avventure già vissute, ma in fondo è questa vita che è piena di sorprese, quei ricordi ormai sbiaditi, eccoli prepotenti, come se nulla fosse, ritornano tra i denti. Se gli esami non finiscono, non cambiano le attese, e nei giorni che ci aspettano, 100.000 candele accese che si spengono in un secondo. E sempre dopo aver ascoltato il nostro Paolo Aleotti del laboratorio Teleradio Reporter a Bollate, le nostre rubriche a seguire sono con Antigone, che parlerà dell'ufficio del difensore civico dei detenuti di Antigone, facendo qualche caso concreto, e poi la CEC, comunità educante con i carcerati, presenta Viaggio in Brasile, un sogno diventato realtà. E noi vi ricordiamo sempre di scriverci, redazionelibridentro@gmail.com, oppure Chiesa Santissima Annunziata, via San Mamolo 2, 40136 Bologna, sempre per la posta cartacea. Un saluto da me, che sono Caterina, da Antonella Cortese, da Enea Flacco, che ringraziamo sempre per il montaggio di queste puntate, e a domani. Grazie. Liberi Dentro e Duradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.